Eccoci in diretta, dunque dall'altra parte del telefono una compagna delle ribellule che, con cui parleremo insieme di questa assemblea di domani. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e tutte. Allora, domani appunto queste realtà, queste associazioni, domenica hanno questo appuntamento di marcia per la vita, insomma ci sono tutta una serie di adesioni tra cui anche componenti di estrema destra, Forza Nuova, l'Opus Dei, Milizia Cristi, il Movimento per la Vita, eccetera eccetera, e chiaramente insomma associazioni di destra, fasciste, antiabortiste, che criminalizzano i comportamenti delle donne, compreso appunto il loro diritto anche ad abortire. Insomma, il fatto che poi oltretutto si faccia proprio il 12 maggio risulta ulteriormente provocatoria, insomma, questa iniziativa. Come ci si sta organizzando allora? Come dicevi, infatti il prossimo giovedì 9 maggio alle ore 18 a Piazza Sannino si terrà un'assemblea pubblica affinché la Roma antifascista e antisessista si esprima non solo per ricordare la memoria di Giorgia Namati, ma anche per esprimere la propria contrarietà a una marcia che vede appunto sfilare neofascisti e bigotti di tutta Italia. Voglio ricordare infatti che insomma ci sono svariati motivi per cui troviamo intollerabile che queste persone marcino su Roma. Ricordiamo appunto che sono movimenti che sono quasi totalmente antiabortisti, che diciamo sostengono una retorica e un'ideologia della famiglia assolutamente non solo di stampo medievale, ma che comunque influisce anche in una cultura italiana che non solo vede la famiglia come un avamposto dove in realtà molte volte, come abbiamo ripetuto più volte, i movimenti delle donne, la famiglia è il teatro di violenze e di femminicidi, e insomma anche gli ultimi femminicidi di questi ultimi tempi, che è stata una crescita esponenziale, dovrebbero far riflettere appunto quanto sia molte volte la famiglia un luogo di violenza e di chiusura delle donne. Diciamo che questa retorica della famiglia fa sì che anche il nostro sistema di welfare non sia sia appunto di carattere familista e quindi non preveda dei sistemi che effettivamente di natura universale o comunque più moderni. E quindi ricordiamo che della pressione di questi movimenti in Italia il 91,3% dei ginecologi e delle ginecologhe fa obiezione di coscienza, che questo è un sistema che lede i diritti delle donne e una libertà non solo della propria sessualità e della salute riproduttiva. Quindi per tutte queste ragioni, anche per soprattutto ricordare Giorgia Namati, invitiamo tutti e tutte giovedì 9 alle ore 18 a Piazza Sannino a Trastevere. Senti, ma si hanno delle notizie circa proprio il tipo di manifestazione che queste organizzazioni stanno tentando di fare il 12 maggio dal punto di vista proprio della piazza e della concessione di questa degli spazi anche per manifestare? Guarda, diciamo che le regole che questo comune ha dettato in maniera di cortei con il famoso protocollo non valgono per tutti, perché la marcia per la vita partirà da Colosseo e arriverà penso al Vaticano, proprio senza appunto che il comune facesse, come per tutto il resto della manifestazione, degli obblighi rispetto ai cortei. Quindi questi fanno come gli pare, perché dietro hanno il Vaticano e sicuramente un'amministrazione comunale che li spalleggia. Certo. Sì, è chiaro, insomma, e questo certamente non ci resta molto. Scusa se ti interrompo, ricordiamoci che l'anno scorso proprio la manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Roma con il sindaco Lademanno, con tanto di fascia tricolore in prima fila, quindi diciamo questo è il sostegno politico che hanno. Assolutamente, e tu dicevi bene, insomma, che poi si fa tanto negli ultimi tempi, insomma, anche le cronache mettono in risalto appunto le violenze sulle donne, ma in maniera molto ipocrita, insomma, sganciate poi dal contesto che effettivamente produce e riproduce, no, questo tipo di violenze. E senza dubbio queste campagne, quelle appunto antiabortiste, fanno parte di questo discorso, perché in effetti, insomma, criminalizzano la libertà di scelta delle donne stesse. Questo chiaramente, insomma, Alemanno, ma tutti i personaggi, insomma, che lasciano la possibilità a queste associazioni di marciare, evidentemente non lo afferrano, o forse non vogliono afferrarlo, perché appunto evidentemente, insomma, quelle sono le ideologie di cui si sono abbeverati da sempre. Quindi questo un appuntamento, quello di domani. Sì, scusami. No, dicevo, è un appuntamento assembleare quello di domani per decidere il da farsi rispetto al 12. Per decidere il da farsi, appunto, sempre tenendo presente che bisogna ricordare Giorgiana Amati, bisogna ricordarle nelle nostre lotte, e una di queste lotte appunto è la libertà e l'autodeterminazione di tutti e tutte. Quindi il giovedì 9 si parlerà dell'appuntamento della domenica successiva, che è il 12, per ricordare Giorgiana Amati. Va bene, allora, insomma, va bene. A domani. Ciao, grazie. Ciao a tutti e a tutti, ciao.